So make sure that you're grounded. Assicuratevi di essere ben radicati. Lift up through the top of the head. Quindi raddrizzatevi dalla sommità del capo. The chin goes in a bit. Il mento rientra un po'. You might find bending your knees brings a little relief to the lower back. Potreste trovare che piegare un pochino le ginocchia può portare sollievo alla parte bassa della schiena. And if your legs get tired, you can just straighten them up for a little while. Se le gambe si stancano, le potete raddrizzare per un po'. Just pass your attention over your face and just relax. Passate l'attenzione sul viso e rilassatevi. The jaw should be relaxed. La mandibola dovrebbe essere rilassata. Lips together, teeth apart. Le labbra unite e i denti separati. And your eyes are just relaxed, just looking at the floor ahead of you, maybe a meter or so, 2 meters. Gli occhi socchiusi, rilassati, che guardano il pavimento davanti a voi a una distanza di un metro più o meno. They're not looking at anything, they're just relaxed. Non stanno guardando nulla in particolare, sono semplicemente rilassati. Relax the shoulders. Rilassate le spalle. And bring your attention to the soles of your feet. Portate l'attenzione alla pianta dei piedi. What sensations can you feel there? Che sensazioni provate lì? Can you distinguish between two types? Riuscite a distinguere due tipi? One to do with pressure, the other to do with temperature. Uno ha a che vedere con la pressione, un altro ha a che vedere con la temperatura. Parts of the feet you cannot feel. Ci sono delle parti nei piedi che non riuscite a sentire. Sensations constantly changing as the body rebalances itself. Le sensazioni continuano a cambiare mentre state cercando di riequilibrarvi. You acknowledge that these sensations are arising of their own. Riuscite a riconoscere che queste sensazioni sorgono per proprio conto? You're not controlling them. Non le state controllando. So now in the same way, come up the body. Nello stesso modo, risalite su lungo il corpo. And just see what sensations you can feel on the way up. Vedete che tipo di sensazioni riuscite a sentire man mano che salite. Both inside and on the surface of the body. Sia all'interno del corpo, sia sulla superficie. And just make your way to the top of the head. proseguite, andate avanti fino alla sommità del capo. When you get to the top of the head, just see what sensations are there. Quando arrivate su alla sommità del capo, vedete che tipo di sensazioni sono presenti. Without moving your eyes, now take your attention completely out there. So senza spostare gli occhi, lo sguardo, portate l'attenzione là fuori. Become aware of sounds, colors, shapes. Diventate consapevoli dei suoni, dei colori, delle forme. The atmosphere of the room, the sense of other people. Atmosfera nella stanza, questo senso della presenza degli altri. Now at the same time become aware of the body and what's inside the body. E sullo stesso tempo diventate consapevoli del corpo e di quello che c'è dentro il corpo. Any feelings, the breath and so on. Sono delle sensazioni come il respiro e così via. The sense of being in the all. Vedete questo senso dell'essere nel tutto. In everything that the senses can bring. In tutto ciò che i sensi possono portare. Sometimes you're aware of sound, sometimes of feeling, and so on. A volte siete consapevoli dei suoni, altre volte delle sensazioni e così via. Don't choose what to look at. Non scegliete cosa osservare. And relax into this present moment, wide awake. Rilassatevi in questo momento presente, pienamente svegli. relaxing into the present moment, wide awake. Rilassiamoci nel momento presente, pienamente svegli. Here there's no need to try and achieve anything. Qui non c'è nessun bisogno di provare a raggiungere nulla, a ottenere nulla. When we are achieving something, we're always doing something now for some future result. Quando stiamo cercando di ottenere qualcosa, noi stiamo facendo qualcosa adesso per un risultato futuro. Being in the present moment like this is the achievement. Essere nel momento presente così, in questo modo, è il risultato, è l'ottenere. Relaxing into the present moment, wide awake. Rilassandoci nel momento presente, pienamente svegli. In this mode, there is no past, there is no future. In questa modalità non c'è passato e non c'è futuro. There's no need to plan. Non c'è bisogno di programmare. We're not going anywhere. Non stiamo andando da nessuna parte. We've already arrived. Siamo già arrivati. Relaxing into the present moment, wide awake. Rilassandoci nel momento presente, pienamente svegli. In this mode, we're just receiving. In questa modalità, noi stiamo semplicemente ricevendo. There's no need to respond or to react. Non c'è bisogno di rispondere o di reagire. In that sense, we don't have to present somebody. In questo senso, noi non dobbiamo presentare un qualcuno. We don't have to perform. Quindi non dobbiamo like in a play. Sì, non dobbiamo recitare. We don't have to be somebody. Non dobbiamo essere qualcuno. Relaxing into the present moment, wide awake. Rilassandoci nel momento presente, pienamente svegli. Achieving nothing, going nowhere, being nobody. Non cercando di ottenere nulla o di arrivare da nessuna parte o di essere qualcuno in particolare. This is called abiding in the present moment. Questo si chiama dimorare nel momento presente. this mode, we're developing four factors that lead to liberation. In questa modalità noi stiamo sviluppando quattro fattori che conducono alla liberazione. First of all, awareness. Innanzitutto la consapevolezza. Calmness, stillness of the body, calmness of the heart, silence of the mind. Quindi la calma, la quiete nel corpo e la pace nella mente. Steadiness of attention. La fermezza dell'attenzione. I prefer this phrase to the word concentration. Io preferisco questa frase alla parola concentrazione. And equanimity. E equanimità. Equanimity means coming from a place of don't know or not sure. Equanimità significa arrivare da un luogo di non conoscere o non essere sicuro. Without prejudice, without aversion. Senza pregiudizio, senza avversione. Without greed, attachment. Senza avidità o attaccamento. Completely open. Completamente aperti. Completely open to whatever we're receiving. Completamente aperti a qualunque cosa che stiamo ricevendo. Abiding in the present moment. Dimorare nel momento presente. One of the benefits of this mode is that we can see an intention. Uno dei benefici di questa modalità è che noi possiamo vedere l'intenzione. We can be aware of when an intention or a wish arises. Possiamo essere consapevoli di quando sorge un'intenzione o un desiderio. And we can decide whether it's wholesome or unwholesome for us. Possiamo decidere se salutare o non salutare per noi. If we don't indulge what is unwholesome, se non indulgiamo a ciò che non è salutare, and if we only do what is wholesome for us, e se facciamo solo ciò che è salutare per noi, in this very simple way we can change ourselves. In questo modo molto semplice noi possiamo cambiare noi stessi. As the next intention arises, which is to sit, acknowledge it. Quando sorge la prossima intenzione, che sarà quella di sedersi, riconoscetela. And just be very mindful of all the actions it takes to get us into a sitting posture. Siate consapevoli di tutte le azioni che sono richieste nel sederci, nel riprendere la posizione seduta. And do it slowly. Fatelo lentamente. Get the feeling that we have an eternity of time to do the simplest of things. Abbiate la sensazione che abbiamo una eternità di tempo per fare questa cosa molto semplice. Not that we have the eternity of time to do the simplest of things. Non è che ce l'abbiamo veramente questa eternità di tempo per fare la cosa più semplice. Intending to sit. Intenzione di sedersi.